ruotatv.it, oltre lo specchio, dentro la mente. Sai, c'è questa sensazione costante oggi. È un po' come cercare di vincere a un videogioco in cui il controller è completamente rotto. Sì. Però la società da fuori continua a gridarti di premere i tasti più forte. E la cosa assurda è che più il gioco diventa frustrante, più ti dicono che è colpa tua. Esatto, sì. Che, insomma, ti manca la motivazione, che non hai il mindset giusto, o che semplicemente non ti stai impegnando abbastanza. Il che è di una crudeltà affascinante, se ci pensi bene. Cioè, se perdi, la colpa ricade interamente sulla tua presunta mancanza di determinazione. Certo. E nel fare questo si ignora del tutto un fatto puramente strutturale, ovvero che la macchina stessa, l'ambiente di gioco in cui ti trovi, ha un difetto di base. Ed è esattamente questa illusione, insomma, quella che viene smontata da Michele Amico nel suo libro. Il testo è Il passo di lato, la diserzione biologica e verità dell'habitat. Un testo davvero potente. Sì, assolutamente. E nell'approfondimento di oggi vogliamo proprio capire perché la nostra biologia stia letteralmente implorando un cambio di paradigma. È un libro che prende a martellate tutta questa narrativa tossica sul successo a tutti i costi. E lo fa in un modo molto particolare. Esatto. La cosa che mi ha colpita subito leggendo le fonti è che non usa la solita filosofia motivazionale, usa la biologia. Dura e pura. L'assunto di base è pazzesco, cioè la sofferenza, quando esistono alternative, non è una virtù che nobilita l'animo. No, affatto. È un errore di calcolo. Un errore del nostro sistema di navigazione, per l'esattezza. L'autore ci sta dicendo che per smettere di premere questi tasti a vuoto sul controller rotto, dobbiamo prima accettare una verità molto scomoda. Che sarebbe? Che non siamo stati noi a scrivere il codice di questo gioco. Lui lo definisce l'errore del libero arbitrio. Ah, interessante. Praticamente noi siamo stati gettati in un corpo specifico, in un contesto geografico e sociale specifico, senza alcun permesso. Eppure la società ci consegna un copione che è stato scritto da chi ha il terrore del silenzio e del vuoto, e ci ordina una cosa ben precisa. Cioè, recita questa parte e sarai felice. Esatto. Sii produttivo e andrà tutto bene. Ma la scienza racconta un'altra storia. Giusto, il libro cita Robert Sapolsky, che è questo neuroscienziato di Stanford, per ricordarci che in realtà siamo il risultato di una catena causale pressoché infinita. Sì, una catena che non controlliamo. Geni, ormoni, neurotrasmettitori. Addirittura i livelli di stress di nostra madre mentre eravamo nel grembo. Incredibile. Tutto questo, scrive la trama a monte, noi siamo semplicemente gli organismi biologici che, alla fine della fiera, mettono in scena quella trama. La sofferenza acuta di cui parlavamo nasce proprio nel momento in cui cerchiamo di sovrascrivere le nostre reali esigenze biologiche per assecondare una storia che ci è stata imposta dall'esterno. Il che distrugge completamente quello che io chiamo il mito del garage. Ah sì, la narrazione alla Steve Jobs? Proprio quella. Quell'idea popolarissima per cui, insomma, se hai un garage polveroso e una forza di volontà incrollabile, puoi costruire un impero dal nulla. Amico suggerisce che ci hanno venduto la speranza come un superpotere. Mentre spesso è proprio la catena che ci tiene immobili nel fango. Certo. Nel testo cita persino Carl Gustav Jung, che definiva il famoso volere e potere come la vera superstizione dell'uomo moderno. Ed è una definizione calzante. Pensare che l'io cosciente possa da solo comandare e piegare l'immenso oceano di forze deterministiche e biologiche che ci governano, beh, è letteralmente come credere alla magia. È vero. Questo mito del farsi da soli è estremamente pericoloso, perché occulta le prove reali. Nessuno calcola mai l'habitat favorevole, le risorse economiche iniziali, l'assenza di malattie debilitanti o di traumi precoci. Viene tutto ignorato. Esatto. Faccio un esempio. Se prendi una pianta e la metti in un terreno arido, la sua pura forza di volontà di fiorire produrrà semplicemente una morte più lenta e dolorosa. Non cambierà il terreno. Aspetta, aspetta. Fermiamoci un attimo qui, perché questo punto è cruciale. Mettiamo che io o chi ci ascolta conosca qualcuno che sta facendo i salti mortali. Magari uno che lavora 14 ore al giorno per aprire una sua attività. Certo. Se si va da questa persona a dirle che il suo impegno è solo una superstizione biologica, beh, questa ride in faccia a chi glielo dice. O si arrabbia di brutto. È una reazione comprensibilissima. E allora mi chiedo, non c'è il rischio che questo approccio iperdeterministico diventi l'alibi perfetto per non fare assolutamente nulla? Cioè una specie di apatia totale in cui si pensa, vabbè, tanto è già tutto scritto dai miei geni e dal mio habitat, mi arrendo. E la reazione più comune a queste idee, sì. Ma il testo non suggerisce affatto la rassegnazione. Anzi, propone un radicale spostamento di energia. In che senso? Nel senso che, invece di usare uno sforzo sovrumano per cercare di cambiare la tua natura interna, il tuo carattere o i tuoi livelli di energia, cose che sono in gran parte fisse, devi usare quell'energia per cambiare le variabili dell'equazione. Cambiare l'habitat. Esattamente. Devi cambiare l'ambiente esterno, le persone di cui ti circondi, le richieste quotidiane a cui sei sottoposto. Se fai questo, il benessere non è più uno sforzo di volontà estenuante. Diventa naturale. Diventa un risultato inevitabile. Una conseguenza matematica, oserei dire, del fatto che il tuo corpo non deve più combattere ogni singolo giorno contro l'ambiente circostante. Ok, e fin qui la logica mi sembra di ferro. Però mi sorge un'altra domanda. Se la soluzione è cambiare habitat, perché così tante persone rimangono impantanate per anni, a volte per decenni, in situazioni relazionali o lavorative che palesemente le stanno distruggendo? È un ottimo punto. Perché continuiamo a sperare che un capo tossico magicamente cambi? O che un lavoro alienante improvvisamente ci dia soddisfazione? Perché lo stress cronico non è solo uno stato d'animo passeggero. È un vero e proprio acido che corrode specifiche aree del cervello. Il testo di Amico esplora a fondo quella che lui definisce la meccanica della sottomissione. Ovvero? Quando un organismo è sottoposto a uno stress costante, i livelli di cortisolo nel sangue rimangono perennemente alti. E questo ormone, alla lunga, è neurotossico. L'ippocampo, che è una struttura cerebrale fondamentale non solo per la memoria, ma proprio per la nostra capacità di simulare scenari futuri, va in sofferenza. Si contrae. Wow! Quindi si atrofizza, fisicamente. Si atrofizza fisicamente? L'infrastruttura neurale, che ci serve per visualizzare una vita diversa, viene letteralmente danneggiata. Quindi non è che le persone non vogliano andarsene, è che perdono la capacità neurologica di immaginare un'alternativa. Proprio così. Di conseguenza, il corpo mette in atto un riflesso di sopravvivenza. Un riflesso che noi, romantizzando molto la cosa, chiamiamo speranza. Ma l'autore la definisce in un modo molto più crudo. Un'omeostasi del ribasso. Omeostasi del ribasso. Rende l'idea. Siccome il sistema nervoso è troppo esausto per affrontare il picco adrenalinico e il terrore di un cambiamento radicale, cosa fa? Decide di abbassare l'asticella. Si accontenta. Sì, accetta una lenta necrosi della vitalità pur di mantenere uno status quo che, per quanto doloroso, è almeno prevedibile. C'è una metafora spietata nel testo per spiegare questo. Quella del fuoco, vero? Esatto. Se hai la mano su un fuoco, non devi sperare che la fiamma prima o poi si raffreddi o che la tua pelle diventi magicamente ignifuga. Devi togliere la mano. È chiarissimo. È un po' come il tasto snooze della sveglia, quello per ritardare il suono. Solo che qui lo stiamo usando su un allarme biologico che sta segnalando un incendio in casa. Calzante. Invece di scappare dall'edificio in fiamme, diamo una manata alla sveglia sperando che il fumo si diradi da solo. E la cosa assurda è che la chiamiamo resilienza, la chiamiamo sopportazione eroica, mentre in realtà stiamo solo ignorando un allarme vitale. Purtroppo è esattamente quello che succede. Il punto, però, è come si fa a capire la differenza. Per chi ci sta ascoltando, come si fa a capire se si sta tollerando un sacrificio temporaneo per un obiettivo davvero costruttivo, o se si è vittime di questa omeostasi del ribasso? Chi o cosa stabilisce qual è la verità? Il libro fa un passaggio fondamentale qui. Sposta il tribunale della verità, lo porta fuori dalla mente razionale. Perché la mente è un avvocato eccezionale. È capace di giustificare l'invivibile pur di non farci affrontare la paura dell'ignoto. Trova sempre una scusa. Sempre. Quindi il testo ci dice di smettere di ascoltare la mente e di iniziare ad ascoltare quello che definisce il linguaggio della carne. La prova è interamente somatica. È nel corpo. E qui entrano in gioco le teorie bioenergetiche, giusto? Sì, l'autore si appoggia molto ad Alexander Lowen e a Wilhelm Reich, che sono stati pionieri in questo campo. Lowen descriveva la vita come un flusso continuo di eccitazione vitale. Quando noi ci costringiamo a stare in scenari, in habitat che non ci appartengono, creiamo delle dighe per bloccare quel flusso. Perché se lo sentissimo saremmo costretti ad agire. Perfetto. E queste dighe fisiche sono quelle che Reich chiamava la corazza. La famosa corazza di Reich. Quella fatta di tensioni muscolari. Esatto. Reich aveva capito che la tensione emotiva non svapora nel nulla. Si cristallizza in tensione muscolare, cronica. Pensa, a che si sveglia la mattina con la mascella dolorante perché ha macinato i denti tutta la notte? Per trattenere la frustrazione. Sì. Oppure pensa al bacino rigido, alle spalle perennemente contratte vicino alle orecchie, o forse la cosa più comune, al respiro. Quello corto. Esatto. Il diaframma si blocca in una posizione sollevata. Questo ci costringe a fare respiri corti, alti nel petto, che segnalano costantemente al cervello uno stato di pericolo imminente. Il corpo sta urlando che si trova in uno stato di distorsione. Ma sai, la vera tragedia di questa corazza, almeno da quello che ho capito studiando il testo, non è nemmeno solo il dolore fisico. No. È che questo meccanismo di difesa, anestetizzando il dolore per permetterci di tirare avanti in quell'habitat ostile, anestetizza anche tutto il resto. Chiude i recettori. Esatto. Chiude i recettori. Perdi la sensibilità alla sofferenza, certo, ma perdi anche, inevitabilmente, la capacità di provare gioia autentica. O piacere. O entusiasmo. È un prezzo altissimo. Un organismo sano e fluido. Si adatta, si muove in modo morbido. Invece un organismo prigioniero in un habitat sbagliato si muove a scatti. È rigido, consuma un'energia spaventosa solo per mantenere contratta la sua muscolatura difensiva. Ok, supponiamo allora di aver preso coscienza di questa tensione. Magari chi ci ascolta si rende conto proprio ora che ha le mascelle serrate da 3 anni e che il suo lavoro lo sta consumando. Ok. Riconosciamo l'allarme biologico. Verso cosa dovrebbe dirigersi a quel punto il nostro impulso vitale? Insomma, come riorientiamo la nave? Il nostro cervello ancestrale. E specificamente al sistema del seeking. Il sistema di ricerca. Teorizzato dal neuroscienziato Jack Panksepp. È un circuito primordiale, che è guidato dalla dopamina, e genera in noi una spinta instancabile a esplorare il mondo. Da un punto di vista evolutivo, era quello che serviva a farci alzare la mattina. Per cercare cibo. Cibo, mappare nuovi territori, trovare partner. Insomma, è il vero motore dell'esplorazione umana. Il problema grosso, però, è che questo sistema non sa distinguere tra una ricerca utile alla nostra reale sopravvivenza e una ricerca completamente vuota. L'autore sostiene infatti che la società moderna ha hackerato i nostri circuiti ancestrali. Le ha dirottati in un modo a dir poco spietato. Il nostro cervello cerca disperatamente significato, ma la società gli offre in pasto solo metriche vuote. È proprio come l'analogia del cibo spazzatura. Esatto. Il nostro corpo ha un bisogno genuino di zuccheri e grassi per sopravvivere in natura. Ma se oggi gli diamo quintali di zucchero filato e patatine fritte, il sistema impazzisce. E con il seeking è uguale. Questo impulso viene saziato per 3 secondi con una notifica, un like sui social media o magari un acquisto impulsivo online. A breve termine abbiamo il picco di dopamina, certo, ma a lungo termine il sistema va in grave malnutrizione emotiva. È un motore che gira a 1000, ma completamente a vuoto. E quando questo impulso viene frustrato costantemente o nutrito con falsi obiettivi di plastica, l'organismo entra in uno stato depressivo. È un vero e proprio crollo neurochimico. E il rimedio che viene proposto nel testo per questo crollo è il biopensiero. Che cosa comporta, all'atto pratico? Significa riorientare forzatamente questo sistema di ricerca verso scenari che l'autore chiama biofili. Biofili? Sì, interazioni con la natura vera, con gli animali, l'immersione in ambienti silenziosi. E attenzione, non si tratta di concetti poetici o da cartolina. L'autore li presenta come delle necessità fisiologiche e neurochimiche ferree. Cioè il cervello ne ha proprio bisogno. Assolutamente. Il cervello umano si è evoluto nel corso di millenni per processare i frattali naturali, il ritmo lento delle stagioni, il comportamento imprevedibile di un animale. quegli specifici input leniscono il sistema nervoso, mentre le notifiche e le luci blu degli schermi, quelle lo incendiano. E a questo concetto si aggancia un'altra idea formidabile del libro, quella della sovranità della competenza. Molto importante. Il testo richiama Alfred Adler. Lui sosteneva che il complesso di inferiorità nasca in realtà da una genuina mancanza di competenza sul mondo reale. Noi passiamo le nostre giornate a spostare documenti su uno schermo, a interpretare email passivo-aggressive dei colleghi. Viviamo totalmente immersi in simboli astratti. Esatto. Invece, saper curare una pianta, o interpretare i bisogni di un cane, padroneggiare la lavorazione del legno, queste sono competenze reali, tangibili, che creano quello che l'autore chiama un territorio interiore invalicabile. Perché restituiscono un feedback di realtà. Un feedback che nessuna narrazione sociale, per quanto forte, può smentire. Se tu pianti un seme, lo curi e lo fai crescere, beh, hai generato vita. La società non può toglierti quel senso di padronanza profonda. Ti rende sovrano? Sì. Questa competenza reale diventa una sorta di passaporto. Ti rende molto meno dipendente dall'approvazione esterna. C'è un ma, però. E qui mi metto nei panni di chi ci sta ascoltando. Dimmi. Non tutti possono dall'oggi al domani mollare il lavoro da impiegato in una grande città come Roma o Milano per andare a fare gli eremiti in Appennino e coltivare la terra. Certo che no. Sarebbe irrealistico. E allora come si applica questa idea di competenza vitale nel caos di una vita metropolitana dove siamo tutti iperconnessi? Il trucco è capire che la competenza non è affatto una questione di geografia. Non devi per forza isolarti. Il nocciolo della questione è l'interazione diretta con la vita. Senza filtri. Senza l'intermediario dello schermo o del giudizio sociale. Può essere il giardinaggio estremo su un piccolo balcone di città. Può essere imparare a riparare un motore nel tempo libero. O persino cucinare, ma con una padronanza totale degli ingredienti grezzi. Quindi sporcarsi le mani. Letteralmente. L'obiettivo è eliminare, magari anche solo per 2 ore al giorno, quella dipendenza psicologica dai simboli astratti. Devi riabituare le tue mani e il tuo cervello a modificare la materia fisica, perché questo resetta i circuiti dello stress. Ok. Quindi, una volta armati di questa radicata competenza materiale e di questo biopensiero, come si ribella effettivamente alle regole del gioco? Come si affronta il sistema che ci vuole perennemente stressati e produttivi? Ed è qui che l'autore introduce il concetto che dà il titolo al libro. Il passo di lato. La diserzione. La diserzione silenziosa. Per ribellarsi non bisogna scendere in piazza a urlare. Non bisogna fare rivoluzioni rumorose. Perché urlare contro il sistema in un certo senso significa riconoscerne l'autorità. Esattamente. Se combatti in modo frontale un apparato che si nutre proprio di conflitto e di attenzione, gli stai fornendo esattamente l'energia di cui ha bisogno per alimentarsi. L'arte della diserzione non è la lotta. È l'assenza. Tirarsi fuori dalla dinamica. È fare un passo di lato, appunto. Il testo usa un proverbio, secondo me, illuminante per questo. È non puoi cambiare il mare, ma puoi smettere di affogare. Bellissimo. Però viene da chiedersi, si potrebbe pensare che sia un po' da vigliacchi? In che senso? Insomma, viviamo in un'epoca in cui se non fai sentire la tua voce su tutto, se non ti polarizzi, se non ti schieri pubblicamente contro ogni ingiustizia, vieni subito considerato complice. C'è una pressione sociale enorme ad avere un'opinione militante. E lui invece ci dice di disertare, di fare un passo di lato nel silenzio. Non rischia di sembrare un menefreghismo egoistico? Dal punto di vista della narrazione sociale attuale, forse sì, sembra così. Ma l'autore guarda la questione, ancora una volta, dal punto di vista dell'economia biologica. Della salute del corpo. Sì. L'attivismo performativo, l'indignazione cronica sui social media, dal punto di vista chimico provocano gli stessi picchi di cortisolo di un attacco fisico. Consumano letteralmente la persona. È vero. La diserzione silenziosa, invece, cioè l'assenza dalle arene dove si consumano queste guerre di ego, è in realtà un atto di subversione immensamente più potente. Perché gli togli il carburante. Gli togli la benzina. Non ti opponi a loro, semplicemente non sei più disponibile per le loro dinamiche. Non esisti più su quel piano. E per mantenere questa posizione, che comunque richiede forza, il testo suggerisce di cercare i candidi, che, attenzione, non sono persone buone in senso morale o religioso, giusto? No, il termine non ha accezioni morali. Sono individui che hanno semplicemente smesso di recitare, che hanno gettato la maschera sociale e di conseguenza non emettono più interferenze. Credo che chi ci ascolta stia probabilmente passando in rassegna le proprie conoscenze proprio in questo istante. Cercando di capire chi è un candido e chi no. Esatto, chi è un candido e chi invece è un buco nero emotivo. Ed è pazzesco pensare che la risposta non si trovi in chi ci sta più simpatico a livello razionale, ma in chi ci fa cambiare fisicamente stato. Il termine tecnico per questo fenomeno è trascinamento biologico, o risonanza. E non ha nulla di mistico, badate bene, è pura fisiologia del sistema nervoso autonomo. Cioè, ci corregoliamo a vicenda. Esatto, gli esseri umani corregolano il proprio sistema nervoso in base a chi hanno davanti. Se sei vicino a una persona cronicamente ansiosa o molto performativa, i tuoi neuroni specchio catturano la sua tensione muscolare e il tuo corpo si allerta in automatico. Ti sale l'ansia senza motivo. Sì, ma in presenza di un candido, di queste persone che hanno fatto il passo di lato, avviene la risonanza contraria. Il respiro scende? Il respiro scende naturalmente nel ventre, senza che tu debba fare nessuno sforzo o tecnica di rilassamento. I muscoli si allentano da soli, il battito cardiaco si regolarizza. Queste persone, con la loro sola presenza pacifica e non giudicante, creano attorno a sé una vera e propria zona franca. Un perimetro di sicurezza. Un perimetro biologico sicuro, sì. All'interno del quale il tuo corpo riceve finalmente il segnale che la minaccia è finita e può abbassare la famosa corazza di Reich di cui parlavamo prima. Ed è per questo che, quando il corpo sperimenta questa risonanza genuina, tornare indietro è un po' come cercare di rimettere il dentifricio nel tubetto. È impossibile. Tornare a farsi manipolare dai sensi di colpa aziendali o dalla paura di deludere la famiglia non è più solo difficile dal punto di vista psicologico. Diventa un'impossibilità fisica. Esatto. Il tuo corpo riconosce il veleno prima ancora che la mente abbia il tempo di processarlo. Si ribella alla fonte. Quando hai un termine di paragone finalmente sano, l'inaccettabile diventa fisicamente intollerabile. E il testo di Michele Amico ci porta, in modo inesorabile, verso un bilancio finale di tutto questo. Ci chiede di guardarci con una lucidità estrema, proiettandoci all'ultimo istante della nostra esistenza terrena. Che, insomma, è una conclusione vertiginosa. L'autore ci ricorda che, su quel letto, alla fine della corsa, tutte queste metriche della società collasseranno miserabilmente. Tutte quante. Non porteremo con noi il saldo del conto in banca. Non conteranno le promozioni, i like sui social o l'approvazione di colleghi che, ammettiamolo, ci avranno già dimenticato il giorno dopo. L'unica cosa che conta, e che conterà davvero in quel momento, sarà la qualità del viaggio. Il sapore biologico ed emotivo. Esatto, di come abbiamo attraversato i decenni. E il messaggio centrale è che non bisogna affidarsi alla fortuna per avere una buona vita. Dobbiamo studiare le cause a monte, capire il determinismo, l'enorme impatto dell'habitat, le reazioni del nostro sistema nervoso, per poter sorridere alla fine. Creare le condizioni giuste. L'obiettivo ultimo è proprio usare questa conoscenza per costruirci attivamente un ambiente in cui la nostra neurochimica possa secernere pace interiore in modo del tutto naturale. C'è un'immagine meravigliosa in chiusura del libro. È l'invito a guardarsi le mani, a sentire fisicamente il battito nel petto. Il libro sostiene che queste, alla fine, sono le uniche realtà inconfutabili che possediamo davvero. Non i pensieri. Il corpo. Il corpo. È un invito a chiederci, in questo preciso momento, se stiamo vivendo stati interiori che ci appartengono davvero, o se stiamo solo eseguendo a memoria un copione scritto da chi ha bisogno della nostra conformità. Se c'è vera risonanza biologica, la vita scorre fluida. Tutto il resto, gli sforzi disumani e le tensioni costanti, è solo interferenza. È un criterio diagnostico perfetto e anche un po' brutale. Se oggi, per finire la tua giornata lavorativa o gestire una relazione, hai dovuto stringere ripetutamente i denti e hai dovuto attingere alla pura forza di volontà sopprimendo l'istinto animale di fuggire, beh, l'habitat è sbagliato. La biologia non produce menzogne. E torniamo da dove siamo partiti, a quel famoso videogioco con il controller rotto. Questa immersione profonda nelle idee di Amico ci ha consegnato degli strumenti affilati, strumenti per tradurre i segnali di allarme della nostra stessa carne. Strumenti fondamentali oggi. Assolutamente. E vorrei chiudere lasciando a chiunque ci stia ascoltando un pensiero autonomo da esplorare. Abbiamo capito che la nostra biologia reagisce in modo drammatico e immediato all'habitat fisico e sociale in cui siamo immersi, giusto? Certo. Ma pensiamo ai mondi immateriali che abitiamo. Quali micro-habitat stiamo costruendo, magari anche solo riempiendo i momenti vuoti delle nostre giornate sui nostri schermi digitali? È una bella domanda. Se domani mattina potessimo indossare una tuta che mappa in tempo reale la tensione dei nostri muscoli, il ritmo del nostro respiro e i picchi del nostro cortisolo, per 24 ore esatte, quale scomoda, innegabile verità biologica rivelerebbe? E, soprattutto, quante di quelle alterazioni sarebbero legate a cose che la nostra mente ancora oggi si ostina a considerare normali? Pensateci. Alla prossima. Potatv.it, oltre lo specchio, dentro la mente.